Anche grazie, signor Console. Prima di dare la parola ai relatori, permettetemi che rubi qualche minuto per una breve introduzione sul perché, ecco, l'Istituto ha ritenuto opportuno da 2 anni a questa parte pianificare questo primo incontro. Dico primo incontro perché credo che appunto altri seguiranno. Il Console ha già sottolineato l'attualità drammatica del problema della tutela internazionale delle minoranze, attualità drammatica che si è accentuata proprio, direi, dal momento in cui abbiamo cominciato a progettare questo convegno 2 anni fa ad oggi. La confusione e la indecisione che domina la scena internazionale sulle misure da prendersi per la tutela delle minoranze e anzi preliminarmente per porre termine agli eccidi e alle stragi è nota a tutti. E non abbiamo in Italia bisogno di sottolineare ancora di più in una giornata come quella di oggi in cui appunto rientrano in Italia le salme di 3 italiani che sono morti in questi scontri nella Bosnia. Noi ovviamente come storici e giuristi non pretendiamo di fornire indicazioni precise di intervento. Non siamo politici, non spettano a noi le terapie, ma riteniamo nostro dovere dare un apporto di comprensione, fare cioè quei lavori preliminari di analisi che i biologi stessi fanno in preparazione e in apporto all'opera dei clinici e dei chirurgi, di coloro che dovranno poi intervenire. Per questo l'Istituto Storico Italo-Germanico, per iniziativa del professor Corsini, appunto a cui va ancora il nostro ringraziamento, e sulla base della sensibilità che la regione Trentino-Alto Adige ha nella propria natura per il problema delle minoranze, si è mosso da 2 anni questo lavoro per la preparazione di questo convegno che, come ho detto, rappresenta nelle nostre intenzioni una prima tappa. Il punto centrale, il punto che è stato preso come base per lo sviluppo appunto di questo approfondimento storico, è il tentativo compiuto dopo la prima guerra mondiale nell'ambito della Società delle Nazioni, nel suo sforzo e nel suo fallimento, per la tutela appunto delle minoranze. Non entro nel problema specifico delle norme di tutela che sarà oggetto delle singole relazioni. Mi limito ad indicare il quadro giuridico internazionale che delimita in qualche modo l'intervento della Società delle Nazioni, per fornire appunto gli elementi di comprensione, di cornice al problema che sarà oggetto del nostro incontro. Da un lato, le motivazioni più propriamente politiche dei limiti nell'azione della società delle nazioni devono essere trovati nelle motivazioni politiche che portarono in qualche modo subito dopo, dal trattato di pace alla firma del patto della Società delle Nazioni nel 1919, alla prevalenza delle nazioni vincitrici, con la continuazione nella Società delle Nazioni del Consiglio Supremo degli Alleati, che aveva appunto determinato la linea di forza che aveva condotto al trattato di pace. Quindi, il rifiuto stesso degli Stati Uniti d'America di entrare nella Società delle Nazioni portò a questo, diciamo, a questa incrinatura, a questa prima, a questo primo grande limite delle capacità di intervento della Società delle Nazioni. Sul piano più profondo della dottrina politica giuridica, le ragioni sono più complesse perché, nell'ambito dello stesso patto della Società delle Nazioni, l'unico soggetto riconosciuto del diritto internazionale rimane lo Stato. Richiamo l'articolo 10, appunto, che è l'articolo intorno a cui ruota tutta questa tematica all'interno della Società delle Nazioni, nel quale i membri della società si impegnano a rispettare e proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i membri della società. Ecco, questa norma implica appunto che tutti i membri in qualche modo rappresentano il soggetto inviolabile, insomma, ecco, in questo quadro di diritto internazionale. La contraddizione quindi che si apre anche a livello della dottrina è quella tra una concezione universalistica che si va affacciando, il primo avvio alla formazione di una società interstatale, ad una società e quindi con una manifestazione superstatale di intervento, ad un sistema di sicurezza collettiva, e invece appunto la continuazione dello Stato come unico protagonista della politica internazionale. Questa contraddizione si riflette negli altri articoli del Patto della Società delle Nazioni, sull'articolo 16, sulle possibilità di intervento bellico, eccetera, ma non entriamo nei particolari. Ciò che volevo solo richiamare è che proprio su questo punto, sul piano dottrinale, all'inizio degli anni 20, si vengono a formare due differenti correnti di pensiero. Da una parte coloro che sostenevano, in particolare tra i giuristi francesi, la possibilità di un intervento di polizia internazionale a tutela dei diritti umani e delle minoranze che vengono compromesse nei singoli settori, e d'altra parte una dottrina prevalentemente tedesca contraria appunto ad un intervento di questo tipo, con la concezione difensiva in qualche modo dello Stato come unico soggetto del diritto internazionale. E proprio in base a questa contraddizione che i risultati furono molto scarsi, si trovò la strada che verrà qui esaminata appunto nelle varie relazioni dei patti regionali, tra i quali l'accordo di Locarno dell'ottobre 1925, ma si trattò appunto di interventi in qualche modo marginali, con poco successo, proprio per questa contraddizione fondamentale che si accentua sempre di più, invece che diminuire tra gli anni 20 e gli anni 30, tra la funzione invocata di un superstato della Società delle Nazioni, in qualche modo, e l'inviolabilità della sovranità statale. La Carta dell'ONU, entrata in vigore nell'ottobre del 1945, tenterà di superare questo impasse sulla base della tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale. È una storia più recente che non tocchiamo qui, ma si può almeno dire perché appunto non la tocchiamo in qualche modo. Perché? Perché le contraddizioni si sono riformate, approfondite negli anni dopo la nascita dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e dopo la Carta appunto del 1945, proprio perché c'è stata questa contrapposizione crescente tra un onnipotente Consiglio di Sicurezza, il cui potere di veto diventa perno della convivenza internazionale, e la sensibilità sempre maggiore per i diritti umani delle minoranze, per i quali vengono a formularsi sempre più principi di intervento a livello settoriale di singoli organi basati su specifiche convenzioni, in modo da evitare questo scoglio che rimaneva ancora centrale del problema della intoccabilità della sovranità statale. In realtà la sovranità degli stati non viene messa in discussione e paradossalmente, come tutti noi sappiamo, se la situazione non degenerò in questi decenni fu proprio perché vi fu questa specie di congelamento dovuto ai blocchi e alle superpotenze, ecco, per cui non solo abbiamo avuto la guerra fredda, ma abbiamo avuto, direi, un sistema di congelamento generale di questi rapporti interstatali, che ha avuto ovviamente dei riflessi negativi che tutti conosciamo, ha avuto questo effetto anche, cioè di impedire, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la rinascita di quelle tensioni che hanno caratterizzato il primo dopoguerra in questa direzione. Si trattava però solo di un rinvio. I fatti del 1989, la disgregazione dei grandi imperi e della superpotenza del blocco orientale, ha fatto rinascere accanto alle speranze anche questi problemi che credevamo ormai appartenere ad un tempo lontano. In qualche modo c'è stata una specie di avvicinamento quasi, direi proprio con come nelle fotografie, insomma, siamo molto più vicini di quanto non pensassimo qualche anno fa proprio a questa situazione del primo dopoguerra. Per concludere, mi è caro riprendere una tesi di un uomo, di un pensatore politico italiano dell'Ottocento, a cui il nostro istituto si è interessato qualche anno fa, Pasquale Stanislao Mancini, che scriveva proprio nel 1851 ancora una frase che può servire come provocazione, ecco, una tesi di discussione che fino a pochi anni fa era rigettata come una specie di eresia da parte dei grandi studiosi, di giuristi di diritto internazionale. Quando Pasquale Stanislao Mancini scriveva: le nazioni e non gli stati sono soggetti del diritto internazionale. E forse era un'eresia, bisogna inserirla nel quadro appunto della prospettiva di Pasquale Stanislao Mancini, diciamo così, nel momento di genesi del Risorgimento italiano, ma quella che era appunto un'eresia fino a qualche tempo fa può forse almeno, dico, essere un oggetto di meditazione per noi oggi, in questo nuovo quadro internazionale. Forse oggi appunto non è più un'eresia. Su questo sfondo ci sembra giustificato appunto il programma che abbiamo messo appunto per questo nostro congresso. Avremo modo di ascoltare in primo luogo relazioni che ci informeranno sui tratti che il problema presentava negli anni della prima e durante la Grande Guerra, prima della Grande Guerra e durante la Grande Guerra, e che offriranno alcune riflessioni sull'idea di minoranza nazionale come allora veniva in generale concepita. E qui riveste a nostro giudizio una particolare rilevanza l'esperienza boema, vero banco di prova della possibilità di convivenza interetnica in uno Stato che si definiva appunto multinazionale. E per questo è stato concesso un certo spazio nei limiti del convegno, un ampio spazio alla boema. Passeremo quindi ad analizzare da vicino le caratteristiche del sistema per la protezione internazionale delle minoranze garantito dalla Società delle Nazioni, sia discutendo sullo suo fondamento giuridico costituito dai cosiddetti trattati per le minoranze, sia su taluni aspetti del suo funzionamento. La presenza e le relazioni di studiosi provenienti da quegli stessi paesi che dovettero a suo tempo sottoscrivere detti trattati darà modo di conoscere e valutare quale sia stato concretamente l'influsso delle norme del sistema sulle legislazioni interne che a quelle norme dovevano in linea di principio, almeno teoricamente, adeguarsi. Ascolteremo infine relazioni che si occupano di casi i quali a stretto rigore si situano fuori dal sistema, ma che certamente contribuiscono a rendere più completo il quadro offerto dal problema politico delle minoranze fra le due guerre. Si presterà attenzione all'ambiguo esperimento sovietico, all'epoca totalmente isolato, così come potrà apparire interessante ottenere informazioni anche dettagliate riguardo quella che potrebbe definirsi l'alternativa al sistema dei trattati, vale a dire lo scambio forzato di popolazioni per il raggiungimento dell'omogeneità nazionale dello Stato. Ci sembra, senza voler in alcun modo anticipare quelli che saranno i risultati di convegno, che si arrivi così a toccare un aspetto fondamentale nell'ambito delle ricerche collegate al problema dei rapporti fra maggioranze e minoranze nazionali. Si tratta del passaggio, incompleto finché si vuole, ma innegabile, da un atteggiamento contraddistinto, nel migliore dei casi, da una più o meno larga tolleranza, quindi da un atteggiamento di tolleranza che riguardava le minoranze nazionali come un male inevitabile, come qualcosa che contravveniva alla razionalità assoluta rappresentata unicamente dall'identità Stato-Nazione, quindi un male inevitabile, all'atteggiamento che vede in essi invece portatori di diritti propri, di valori propri, che lo Stato non ha concesse, ma che sono dallo Stato stesso soltanto riconosciuti. I gruppi nazionali alloglotti diventano quindi in questa situazione, o almeno c'è lo sforzo di farli diventare, non semplicemente dei gruppi tollerati, ma di cittadini che non solo sono cittadini a pieno titolo, ma portano in questo ambito statale una ricchezza maggiore, proprio per la pluralità delle culture che in essi si esprimono. Certamente il sistema ha dovuto operare in condizioni estremamente difficili, appunto negli anni 20 e 30 di questo secolo l'Europa è passata da una crisi politica all'altra e i rari momenti di distensione rappresentano passaggi del tutto effimeri. Fra questi particolari speranze suscitò nel settembre del 1926 l'ingresso della Germania nella Società delle Nazioni. Allora parve che con il ritorno nella comunità internazionale della Germania potessero finalmente ritenersi superati i rancori lasciati dalla Grande Guerra e che si potesse ritrovare un nuovo equilibrio nell'Europa. Ma fu una breve speranza destinata a finire ben presto. Questa speranza però è l'immagine, appunto, che noi presentiamo nella stessa presentazione del volantino del congresso, questa immagine della conferenza di Stresa. Dal pulpito di Ginevra, Strassmann interpretava bene le speranze del momento quando affermava: non può essere il progetto di una disposizione divina che gli uomini rivolgano gli uni contro gli altri le loro migliori realizzazioni nazionali. Ecco, sono queste speranze che noi cerchiamo di riprendere appunto nei lavori di questo nostro convegno. Grazie, scusate, sono stato troppo lungo.